Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Stavolta inizio con un quiz, perché lo scrittore presente al cacciatore di libri mi deve dire, in ordine, chi è che sta cantando questa canzone, come si intitola questa canzone e in che anno è stata cantata per la prima volta questa canzone. E l'ospite scrittore di oggi è Massimo Carlotto, che ora è in libreria con Per tutto l'oro del mondo, in una nuova puntata del suo personaggio seriale dell'Alligatore, pubblicato come sempre dalle edizioni E.O. Non sono impazzita, Massimo, ovviamente tu lo sai, perché questa musicista, questa cantante, anzi blues, tu la citi nel tuo romanzo. Però voglio vedere se sei veramente preparato, se sei come l'alligatore veramente preparato su questa cantante, sì o no. Nome? No, in questo momento ho un buco. No! Questo è uno scoop, questo no. È uno scoop. Susan Tedeschi. Come no? Non l'ho riconosciuta. Non l'hai riconosciuta, no, perché questa era una versione come strana. Come l'alligatore, sono follemente innamorato anch'io di Susan Tedeschi. Lo so, perché sfuggita. Massimo Carlotto ci racconta sempre che, come spesso succede nei giallisti e personaggi seriali, che è un po' il tuo alter ego, insomma. Questo Marco Buratti, che abbiamo detto è un investigatore senza licenza. Aspetta, questa volta mi sono segnata una frase molto carina che tu hai scritto per descrivere. Anche se in avanti col romanzo tanto non si capisce di cosa sta parlando. Tu scrivi: un investigatore senza licenza come il sottoscritto non poteva rivolgersi alle divise per ottenere informazioni. Al contrario dei colleghi autorizzati, doveva tenersi ben lontano dagli sbirri che potevano solo portare guai. In 20 anni di attività ero riuscito a risolvere il problema costruendo una fitta rete di informatori nel peggior sottobosco della società veneta. Allora Massimo, abbiamo scherzato all'inizio con Susan Tedeschi, che non ha alcuna parentela con me, lei Tedeschi, io tedesco, quindi lo diciamo, non c'è conflitto di interessi. Però ci sono rimasto male. Ci sei rimasto male perché non si hai... Si offenderà poi, non mi vorrà più. Non ti vorrà più ai suoi concerti. Allora, tu proprio al cacciatore di libri, presentando il tuo penultimo alligatore, ci avevi anticipato, ci avevi fatto questo bel regalo di anticiparci il titolo di questo nuovo alligatore che esce a distanza di alcuni mesi, dopo una pausa di 5-6 anni, papà, ce ne stai sparando uno dopo l'altro. In questo caso affronti il tema delle rapine in villa, anche il concetto dell'autodifesa, poi spieghiamo bene nella trama. Siccome tu spesso ti leghi alla realtà, c'è stato un fatto particolare che ti ha ispirato la trama di questo romanzo o il fenomeno in genere particolarmente diffuso nel Nord-Est? No, è stata la pancia del Veneto ad attirare la mia attenzione, nel senso che tra casi di assalti criminali, episodi di autodifesa, il dibattito ha sostanzialmente catturato l'attenzione dell'opinione pubblica veneta in maniera molto forte. Per cui io ho frequentato la pancia del Veneto e mi sono un po' spaventato su alcune... Nel senso, su questa cos'è voglia... che ti ha spaventato? La voglia di autodifesa portata all'estremo? Non solo, ma sostanzialmente sviluppa una sorta di sfiducia nei confronti dello Stato, perché lo Stato non è in grado di proteggerci, allora ci difendiamo noi, che secondo me è un discorso molto pericoloso. È una questione strumentalizzata dal punto di vista politico? Sì, perché noi viviamo in un territorio dove per esempio le mafie riciclano moltissimo, ma di mafia non si parla mai. E invece si parla di questa piccola media criminalità. È una criminalità fastidiosa e anche nel caso delle rapine nelle ville molto pericolosa, perché il livello di violenza delle rapine è sempre alto. Il problema è che però non bisogna sviluppare forme di autodifesa in un territorio come il Veneto, perché non ce n'è bisogno, nel senso che questi casi accadono, ma accadono dappertutto, e secondo me siamo ben protetti dalle forze dell'ordine. Invece questo discorso della sfiducia nei confronti dello Stato è una sfiducia che si sviluppa poi anche, si dilaga anche in altri settori, e c'è da parte del territorio questo rifiuto dell'altro. l'altro che è il Rom, che è il migrante. È preoccupante che proprio in quel territorio, a partire da questi discorsi di ordine, poi in realtà dal punto di vista culturale la traduzione immediata da parte del comune di Venezia e di Padova è stata l'eliminazione di 49 libri per bambini che ponevano... Eh sì, c'è stata una grande polemica. La famiglia tradizionale. E questo secondo me fa parte di tutto questo clima che sta un po' ammorbando il Veneto. Allora scrivere questo romanzo è stato anche così una scusa per cercare di mettere ordine. Tornando invece nello specifico alla trama del romanzo, c'è una rapina in villa particolarmente violenta, viene ucciso il proprietario, viene addirittura torturato e ucciso il proprietario di questa villa e anche la governante. L'alligatore inizia a indagare un paio d'anni dopo, prima coinvolto da un'altra banda, poi in realtà capisce che c'è qualcosa che non va e siccome lui appunto è un investigatore e deve essere assoldato da qualcuno, da chi si fa assoldare? Sì, l'alligatore non vuole enunciare questo caso. Capisce che c'è qualcosa che puzza. Sì, e poi lui in quel momento ha bisogno di un caso per tenere lontani i fantasmi del passato che lo preoccupano sempre molto e quindi si inventa di fatto un cliente ed estorce 20 centesimi al figlio delle vittime che diventa il suo cliente. Quindi con i suoi compagni di sempre, Max La Memoria e Beniamino Rossini, inizia ad indagare, scoprendo, questo lo possiamo dire perché già si capisce un po' all'inizio, che in realtà la vittima di questa rapina in villa faceva parte di un giro di ricettazione di gioielli, da qui anche il titolo Per tutto l'oro del mondo. Sì, perché non sempre le rapine, voglio dire, nelle ville sono casuali, nel senso che lì c'è un obiettivo ben preciso e l'alligatore quando scopre la verità comincia a capire che la situazione è molto, molto, è molto diversa. E quindi si trova di fronte anche a degli avversari di nuovo tipo che non aveva mai affrontato, che non sono esattamente la criminalità ma qualcosa di diverso. C'è anche un pizzico di romanticismo in questa puntata dell'alligatore, come ogni tanto succede, perché l'alligatore si innamora o comunque insomma è infatuato, ha voglia di corteggiare questa cosiddetta Cora, non è il suo vero nome, questa donna, questa casalinga che in realtà due sere a settimana canta nei locali blues. Cos'è che lo affascina di questa donna? Innanzitutto è affascinato dal fatto che questa donna è una precaria dell'esistenza, esattamente come lui. Per cui è che lei ha bisogno di cantare, lui ha bisogno di investigare per entrare in contatto con il mondo, per avere insomma una sorta di nicchia di sopravvivenza. E questa donna lo affascina anche perché è una donna bella, anche se non canta benissimo, insomma, lui sì, rimane affascinato da quello marginale, il fatto che marginale. Non ha una voce e spaziale. Lui ha da tempo ha voglia di innamorarsi e si innamora follemente di questa donna, però la corteggia a partire da una menzogna e questo lui sa benissimo che questo può portare una montagna di guai e quindi insomma è sempre molto titubante, però alla fine Cora risponde in maniera positiva e quindi c'hanno questa storia e poi non sappiamo come va a finire. No, questo naturalmente non lo diciamo. È uno strano personaggio il tuo alligatore perché ha dei momenti, ha come dire, ha degli aspetti appunto teneri, romantici, l'amore eccetera e poi anche una certa durezza nel modo in cui guarda alla vita, anche questa cosa di dover essere sempre impegnato in un caso altrimenti è come se stesse su un bordo e guardasse l'abisso della sua mente, no? Non riesce a stare senza un caso fra le mani, come mai? Perché come i suoi amici vive all'esterno della società, una sorta di bolla, di nicchia e l'unico modo per entrare in contatto col mondo è investigare e cercare di capirlo, ma soprattutto non riesce a fare i conti con il passato. D'altronde, come Max La Memoria, arriva da una generazione senza passato e quindi il passato teme sempre che il passato arrivi un giorno a chiedere i conti. Ecco, se io ti dovessi dire che ogni tanto l'alligatore mi fa tenerezza, ti rovino, come dire, tutto l'aspetto noir giallo dei tuoi libri con protagonista l'alligatore. No, fa tenerezza anche a me. Ah, sì. Ecco, non è solo una cosa femminile. Ci sono dei momenti questi, spero beviti un bicchiere di Calvados. Quello non manca mai, quello non manca mai assolutamente. Beniamino Rossini invece è come dire... È più la scheggia è impazzita fra i tre, e quello anche un po' più violento, insomma, che mette mano alle armi anche. Vabbè, l'alligatore e Max la memoria si cacciano nei guai, poi arriva Rossini a sistemare le cose. Diciamo come sistema. Però voglio dire, lui è, insomma, una certa sa gestire la violenza, però non è un uomo violento, è un uomo che, insomma, quando serve la usa. Ma anche lui in questo romanzo mi sembra molto, con degli grandi slanci di umanità. Sì, è vero, è più soft questo romanzo rispetto ad altri tuoi precedenti, non solo agli altri alligatori ma anche agli altri tuoi romanzi. Io te lo confesso sempre, no, che sono delle pagine che non riesco a leggere perché sono particolarmente crude, dove c'è violenza eccetera. Invece in questo caso l'ho letto tranquillamente tutto, perché comunque, insomma, anche una fifona come me può leggere per tutto l'oro del mondo. Vabbè, sì, no, è carino che tu dica che non riesci a leggere alcune pagine. Ma io sono sincera, te l'avevo detto, quello sulla Siberia, adesso non ricordo il titolo, ma mi fido di te, quello che finisce in Siberia. Non stiamo parlando delle Vendicatrici, ancora prima, pubblicato con Einaudi. A un certo punto c'era una scena iniziale sia di violenza sessuale, che poi arrivavano questi uomini siberiani, non te lo ricordi manco tu sto libro, Marsiglia. Inizia con Chernobyl, sì, respiro corto. Ah, cioè, respiro corto, non ho dormito la notte con respiro corto. È una caccia al lupo. Ho capito, ma io sono una ragazza sensibile, insomma. No, ma dai, è un romanzo che parla di formazione universitaria. Come no? Una formazione universitaria di criminali spietati dall'università, appunto, poi diventavano... Il problema è che quando peschi della realtà ti può capitare di raccontare storie leggermente toste, insomma. In questo momento, così, senza svelarci che cosa, non so se stai già lavorando a qualcos'altro, che cosa della società attuale, della cronaca, ti ispirerebbe? La trama di un romanzo, non è detto che poi tu lo scriva, però qual è un aspetto sociale che in questo momento ti stuzzica? L'inquietudine indomabile che ormai serpeggia nella società, che non riesce a trovare forme di positive, di traduzione in cose, in elementi positivi. Mi sembra che come ci sia una società che sobbolle continuamente, ma non riesce a trovare un fine intelligente, progettuale. Ecco, questa inquietudine profonda è, secondo me, interessante da indagare da un punto di vista narrativo. Grazie allora Massimo Carlotto, ora in libreria con una nuova puntata dell'Alligatore per tutto l'oro del mondo, pubblicato da EO. Che puntata dell'Alligatore siamo? Questo me lo sai dire? Posso dire due cose, che è l'ottava puntata. Risposta esatta. Ed è un bellissimo regalo di Natale. Oh, fantastico, grazie Massimo Carlotto, una breve pausa, poi parleremo ancora di... Il cacciatore di libri. E come ogni anno, all'inizio di dicembre, naturalmente l'appuntamento per gli appassionati di libri è a Roma, con la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, che si chiama Più Libri, Più Liberi, e che si svolge all'Euro, Palazzo dei Congressi, appunto a Roma, è iniziata ieri e terminerà l'8 dicembre. Noi ne parliamo con Antonio Monaco, che è il presidente del gruppo Piccoli Editori dell'AIE, che è l'associazione, appunto, degli editori italiani, ed è naturalmente responsabile anche del comitato promotore di Più Libri, Più Liberi. Giusto per far capire ancora chi non conoscesse questa manifestazione, chi dovesse venire in questi giorni in fiera, che cosa si trova davanti? Ma innanzitutto si trova, diciamo, tutte le novità della piccola e media editoria, cioè oltre 4.000 titoli rispetto solo all'anno scorso, di novità che probabilmente non conosce, e la possibilità di incontrare naturalmente gli autori, gli illustratori, i traduttori di questi libri, in oltre 400 appuntamenti culturali dedicati appunto alle novità della piccola e media editoria italiana. Ecco, anche perché non dimentichiamo che anche alcuni grandi scrittori non solo iniziano a scrivere con piccole case editrici, ma continuano. Per esempio, uno per tutti, Andrea Camilleri, che continua a pubblicare con Sellerio almeno i libri di Montalbano. Guardi, abbiamo proprio fatto un'indagine, cioè prendendo in mano le classifiche dei libri più letti e degli autori più letti, il 70% hanno cominciato a pubblicare con piccoli editori. Veniamo invece ai dati di quest'anno che avete proprio appena diffusi, sono freschi freschi, insomma, quasi di giornata, diciamo certo. Così. Perché per il mercato delle case editrici medio-piccole, finalmente, dopo alcuni anni, c'è qualcosa che si muove in senso positivo? Complessivamente la crisi, diciamo, si sta in qualche modo esaurendo e quindi tutta l'editoria in quanto tale, diciamo, sta in qualche modo arrivando al livello zero. I piccoli e medi editori quest'anno per la prima volta invece registrano addirittura un fattore positivo, crescono del 2% per il fatturato. Quindi del 2%, mentre i grandi editori, diciamo, sono a livello zero, diciamo, hanno certo. Un po' azzerato le perdite. Esattamente. Ora però, concentrandoci sul piccolo e medio editoria, abbiamo detto un fatturato più 2% per il 2015, la vendita di copie più 1,7%, mentre quelli dei grandi editori è meno 1,7%. I lettori stanno cambiando scelte, perché stanno acquistando più libri, per esempio, dei piccoli e medi editori? Beh, noi lo interpretiamo come una sorta di maggiore consapevolezza nelle scelte e nella necessità, diciamo, di in qualche modo osservare e scegliere tra l'offerta complessiva che viene data. I grandi editori, di fronte a un mercato in crisi e ristretto, si trovano in una difficoltà superiore ai piccoli, perché ovviamente perdono di più avendo di più, e da questo punto di vista per certi aspetti hanno reagito prima, ma in maniera magari più drastica, presentando un'offerta per certi aspetti un po' più omogenea. I piccoli editori globalmente hanno continuato ad innovare, hanno trovato delle formule anche nuove, non a caso se noi andiamo a vedere poi i generi nei quali in particolare i piccoli editori fanno più risultato, indica che hanno una maggiore capacità di innovazione anche in questa situazione critica. Ecco, quali sono i generi? I generi sono ad esempio la graphic novel, che è un elemento centrale, e la letteratura per bambini e ragazzi. Da questo punto di vista, ecco, possiamo dire che nella crisi i piccoli hanno mantenuto un livello innovativo più elevato dei grandi e i lettori li stanno premiando. Ora voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, nel senso che non sempre piccolo è bello, cioè ci sono alcune piccole case editrici che comunque, insomma, traducono dall'estero, comunque pubblicano dei libri non proprio eccezionali, mettiamola così, magari a volte anche con tanti refusi, poco curati, eccetera. C'è un modo per il lettore per orientarsi un po' nel grande mare delle piccole case, delle piccole medie case editrici? Ma per dare un criterio generale, direi più la casa editrice è specializzata, più riesce, diciamo, ad esprimere quindi una competenza e una professionalità ristretta, e più è possibile che abbia anche una proposta di qualità e che il lettore quindi si può fidare. Questo secondo me è molto importante, perché un editore che pubblica a casaccio è molto difficile che possa esprimere una qualità professionale adeguata. Grazie allora ad Antonio Monaco, presidente appunto del gruppo dei piccoli editori dell'AI e l'Associazione Italiana Editori. L'invito naturalmente per tutti è a visitare più libri e più liberi al Palazzo dei Congressi all'Eur a Roma. Lo ricordiamo, fino all'8 dicembre c'è la possibilità di incontrare gli scrittori che pubblicano con la piccola e media editoria, ma anche di acquistare naturalmente libri che, per problemi di distribuzione, perché a volte le case editrici sono troppo piccole, non riescono a raggiungere veramente tutte le librerie d'Italia. Grazie a regia Valeria Bernardi. Vi ricordo che come sempre trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri sul podcast, in podcast, su radio24.it. Per essere sempre aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura a tutti, da Alessandra Tedesco. Con Radio 24 è tutta un'altra domenica, con grandi conferme e nuovi acquisti, con una nazionale di grandi nomi.